e quando cambio idea mi crolla il mondo addosso, ma non so se solo è euforia o un battito di ali che non fa più rumore cupo al suono di una musica che fa. Il freddo di migliaia di persone senza forza, né voglia di cambiare la realtà, né voglia di cambiare la realtà. Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo ospiti Radio Station che ora ci faranno ascoltare alcuni brani del loro disco Sogni e Spari, come ad esempio il primo che abbiamo sentito. Il titolo? Il titolo è In tutti i miei sensi. La vostra esperienza in sala di registrazione e quali le idee musicali a supporto di questo nuovo disco? Come sentite di aver lavorato questa volta? Una parola per tutte, in maniera veloce. Abbiamo messo solo un anno e tre, quattro mesi, un anno e tre mesi a farlo. Perché siamo andati un po' per le lunghe e, però è stato bello perché stavolta musicisti aggiunti abbiamo meglio di noi abbiamo collaborato con altra gente, mio cugino Federico, il maestro Berto Franco con la Ijean chitarra Bell. Con Ici. Il whisky, sì, insomma, il whisky anche abbiamo usato e anche le birra. No, adesso basta per svegliare le tarini, no. Svegliamo. Comunque è bella esperienza, sì sì. Qual è invece la prossima canzone? La prossima canzone si intitola Mi accontenterei. Che mi fanno morire, tu lo sai. e scopri i miei pensieri. È da un po' che vorrei dirti che se tu non ci sei, non è semplice per me andare avanti così. Tu non ci sei, ma ti vorrei con me, anche se forse è solo una pazzia, una pazzia. Mi accontenterei di averti accanto a giorni eterni e poi ti dedicherei ogni giorno una canzone che parli di te, del tuo profumo e dei tuoi occhi così unici, mi fanno morire, tu lo sai. Contenterei di averti accanto a giorni eterni e poi ti dedicherei ogni giorno una canzone che parli di te, del tuo profumo, dei tuoi occhi così unici che mi fanno morire, tu lo sai. Morire, tu lo sai. Morire, tu lo sai. Di nuovo in studio con i Radio Station. Il disco è di recentissima uscita ed è stato già presentato al famoso concerto di San Vito e in altri locali. Quali sono state le prime recensioni o commenti lusinghieri che avete avuto? A mia mamma è piaciuto molto. Ecco, però... perché... posso no, dire una è cosa? Già un bene. Prego, prego Riccardo, le parole. Ecco, diciamo che sono state delle buone. Abbiamo fatto proprio una buona impressione alla gente che ci seguiva già da un po'. E soprattutto per quel che riguarda i commenti lusinghieri ci sono stati, però non posso dirti chi ce li ha fatti perché sennò qualcuno verrebbe a prendermi a casa, in quanto insomma non si può proprio dire tutto quanto. E Tullio? Come va? Va bene? Scusate, sta dormendo. No, scherzi, comunque scherzi a parte, finora il disco non è stato, come si suol dire, dato in pasto ai critici, che hanno, c'è stata una recensione vera e propria. E però ogni volta che fai un disco nuovo sembra sempre che sia il migliore, allora ne parli sempre come se fosse sempre per forza migliore del precedente, però questo veramente siamo felici perché è più complesso e più strutturato diversamente e comunque a tanta gente è piaciuto. Io ho sempre pensato che la miglior critica parte da ragazzo che lo ascolta così senza intendersene tanto di musica, più che dal critico, perché è da lì che si vede proprio se fai colpo, se piace. Finora noi siamo soddisfatti, piace e piace anche a noi e quindi siamo felici di questo. Sì, sì. Il prossimo brano per i nostri ascoltatori. Tu per lui affogheresti. Torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends, sempre con i Radio Station. Voi restate sempre su Radio RCS. Affogheresti. Senti, tu per lui affogheresti.